e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sono sempre in cima ai nostri pensieri e a noi due donne di cuore e denari periodicamente piace occuparci di questo argomento, no? È vero, ci piace molto. Siamo appena tornate da Cerzaie, peraltro, dove abbiamo fatto una vera buffata di marmi, ceramiche, mosaici, ma prima di ristrutturarla la casa, possibilmente dobbiamo comprarla. Sì. Allora, i dati Istat degli ultimi giorni ci raccontano che nel secondo trimestre di quest'anno l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, sia per fini abitativi ma anche per fini di investimento, è diminuito di circa il 3% rispetto ad un anno fa. Persiste dunque questo quadro di generale flessione dei prezzi delle case in Italia, ma la considerazione più diffusa è che il mercato non sia proprio ancora pronto ad un cambio di rotta molto deciso. Ce lo diceva anche Paola Marella, ti ricordi, Nicoletta? Sì, proprio la settimana scorsa al Cersaie. Comunque, gli italiani sono pronti a comprare casa, sono molti questi italiani pronti a comprare casa, i mutui sono anche più disponibili, ne abbiamo parlato in qualche puntata fa, e queste famiglie hanno certamente bisogno del vademecum sui primi passi da compiere prima di andare all'atto del rogito, ovvero l'atto che sancisce la compravendita di un immobile. Oggi il Sole 24 Ore pubblica l'inserto comprare e vendere casa dall'agenzia al notaio per un acquisto sicuro, e noi oggi non potevamo far altro che interpellare un signor notaio, direi, per farci spiegare bene come funziona il preliminare di vendita, per essere sicuri che stiamo impegnandoci, sia che siamo compratori sia che siamo venditori, nelle modalità giuste. 800 24 00 24, iniziate a farci le vostre domande. Se anche per voi si avvicina il momento del cosiddetto compromesso, diteci quali dubbi o preoccupazioni avete. Peraltro abbiamo molte guide a vostra disposizione. E nella seconda parte della trasmissione invece cambiamo argomento, giochiamo ad anticipo e parliamo dell'Obesity Day. È una giornata che, come ogni anno, si celebra il 10 ottobre, che ci dà l'occasione di riflettere ancora una volta sul nostro stile di vita. Il peso, lo sappiamo bene, è uno degli indicatori fondamentali della nostra salute fisica, ma non solo. I chili di troppo pesano sulla nostra salute, ma anche sui denari, cara Deborah, perché sembrerebbe infatti che i costi diretti per l'obesità in Italia siano pari a 22,8 miliardi di euro ogni anno e che il 64% di tale cifra venga speso per l'ospedalizzazione. Con il nostro esperto cercheremo di capire come mai i dati relativi all'obesità continuano nonostante tutto ad aumentare, ma oltre ai chili in più che si vedono a occhio nudo e si possono misurare, oggi ci rimisureremo la circonferenza addominale, i medici ci invitano a controllare anche il grasso che non si vede. Parleremo a questo proposito del fegato, che ingrassa con noi e questo non gli fa bene, una condizione che lo affatica. 800 24 00 24, quindi per parlare di casa, per parlare di chili in più e per parlare del nostro fegato. A tra poco. Avanti, non perde tempo, firma qua, è un normale contratto, è una formalità. Un po' più che una formalità, un contratto per tutelarci dai rischi di una compravendita immobiliare. È il preliminare di vendita, un atto che obbliga il venditore a trasferire entro un determinato arco temporale la proprietà del bene all'acquirente. E insomma, detta in termini più semplici, cosa significa tutto questo? Che informazioni contiene questo atto? Quanto vincola le parti davanti a chi si firma? Buongiorno e benvenuta al notaio Arrigo Roveda, presidente del notariato di Milano. Buongiorno a tutti voi. Senti che bella voce importante, eh? Molto. Adesso lo quindi fisseremo, lo apprezzeremo. Esatto, incidiamo veramente sulla pietra stamattina le sue parole. Anche la voce aiuta, E infatti. 800 24 00 24, come sempre il numero verde per tutte le domande degli ascoltatori. Siete in procinto di firmare un preliminare, è un momento anche emotivamente parlando di non trascurabile importanza. Dubbi, richieste, aspetti non chiari, chiamateci, noi siamo pronti con la nostra batteria di domande per il nostro notaio. Ma attenzione, perché come vi dicevo, oggi il Sole pubblica l'inserto comprare e vendere casa dall'agenzia al notaio per un acquisto sicuro ai primi 10 ascoltatori, ma ne abbiamo anche qualcuna in più che chiameranno. Metteremo a disposizione questa guida, magari sceglieremo di regalarla. Guarda, a chi... un, sono praticamente già pronti. Ecco, sì. Quindi insomma. Però anche a chi farà una domanda interessante, certo, curiosa. Esatto, vero. Come sono sempre quelle di tutti i nostri ascoltatori. Si dice signor notaio o dottor notaio? Notaio. Notaio. Sì, sì, no, è veramente indifferente. Signor notaio, anche a volte diamogli pure del tuo al notaio, perché bisogna costruire un rapporto di fiducia, quasi di amicizia. Questo notaio già mi piace. Esatto. Molto. No, ma ti ricordi che hanno proprio di recente anche presentato la loro nuovissima guida sul rapporto con il notaio, un rapporto consapevole. Naturalmente è molto cambiato il vostro mondo. Che sarà tradotto nelle principali lingue di comunità di immigrati, anche per avvicinare la figura del notaio alle comunità di immigrati. Mi che sembra un'ottima si idea. Avvicinano. Hai visto che notizia in anteprima che abbiamo avuto stamane? Ottimo. Notaio, andiamo al tema di oggi, però parliamo di case e a tutti i preliminari di vendita che si firmano davanti a voi, perché intanto è un atto che generalmente viene stipulato davanti a un notaio? Non c'è nessun obbligo di stipulare il contratto preliminare davanti al notaio, ma è fortemente consigliabile. Il preliminare, e sono contento che abbiate impostato la vostra trasmissione sul contratto preliminare, non sul rogito, è il momento fondamentale per chi acquista una casa, perché è lì che si decidono gli obblighi, si decidono i passi successivi. Spesso affrontare i problemi al rogito può essere troppo tardi, il trasloco fissato, il mutuo erogato. E i problemi vanno affrontati dal primo momento, dal momento del preliminare. Preliminare quindi è obbligatorio, notaio Roveda, o comunque suggerito, consigliato? Perché io mi ricordo che 11 anni fa, prima di comprare casa, diciamo, sono andata a rogito diretto, il preliminare non l'ho stipulato. Che rischio ho corso? Nessun rischio particolare, se i soldi sono tutti sul tavolo, se la casa non ha problemi, il contratto preliminare, diciamo che può proprio tutti saltato. Sul tavolo non c'erano, o anche io ho dovuto quasi fare ricorso alla banca come tutta la popolazione mondiale. Questo o quasi vuol tutta. Dire che è molto raro arrivare subito a rogito, perché ci sono traslochi da fissare, spesso le vendite sono a catena, chi vende deve cercare un'altra casa, quindi il preliminare è quasi sempre necessario e utile per regolamentare tutta la fase che va dal momento in cui si decide di acquistare a quando si concretizza l'acquisto. Che peso ha, nel senso, tutela di più il compratore o il venditore di un'abitazione, di un immobile? Se dobbiamo mettere sul piatto i della due interessi, bilancia, esatto. E tutela di più il compratore, ma anche il venditore ha dei vantaggi nello stipulare un contratto preliminare. Il contratto preliminare poi può essere privato, firmato senza l'intervento del notaio o con l'intervento del notaio e allora trascritto nei registri immobiliari, che è come mettere il piede sulla porta che si chiude, si prenotano gli effetti del rogito e tutto ciò che succede dopo la trascrizione preliminare, ipoteche, doppie vendite, sequestri, pignoramenti, diventa inopponibile a chi vuole comprare. Quindi in quale caso, notaio Roveda, è bene che questo atto si stipuli davanti al notaio, in quali casi invece magari per maggior semplicità è meglio che lo si faccia in via privata fra le due parti? In generale l'intervento del notaio è sempre consigliabile, mi verrebbe da dire, se non fosse letto come una un invito naturalmente a fare una spesa in più. No, si scelga prima il notaio della casa. Addirittura. Sì, perché è proprio nel momento della trattativa che si possono compiere gli errori che poi si pagano. Quindi se i controlli, prima si anticipano i controlli, prima si anticipano i problemi e prima si anticipano le soluzioni. Questo è un tema che per la verità negli ultimi anni sul quale ci siamo focalizzati tanto, perché in genere c'è la convinzione diffusa che accedere alla consulenza di questo professionista sia ancora molto difficile. Notaio, voi avete fatto tante battaglie, no, per invitare i cittadini a fare una chiacchierata con voi prima di stipulare ogni atto impegnativo della vita personale, non solo del preliminare di vendita di una casa, di un rogito, ma anche quando si tratta di determinare rapporti familiari, no? Quindi lo si può fare tranquillamente, si può bussare alla porta di un notaio ancora prima di pensare di comprare una casa, per farsi dare così un'idea su tutti quelli che sono i passi fondamentali di questo percorso. Ma soprattutto per farsi fare un budget dell'acquisto, perché se uno ha una certa cifra a disposizione deve sapere anche quanto impatta la fiscalità sul suo acquisto, quanto impatta il costo dell'agenzia e il costo del notaio, proprio per poter dire: io mi posso permettere una casa da 150, 170, 190 mila euro. Bisogna sapere tutti i costi, quindi affidatevi dal momento in cui decidete di fare questo passo al notaio è che poi vi seguirà, in un certo senso la consulenza anticipata è la stessa consulenza, certo. Non aumenta i costi. 800 24 00 24 è il numero verde per chiederci, per farci tutte le vostre domande sul tema del preliminare di vendita, se siete in procinto di fare l'investimento della vostra vita, l'investimento immobiliare, insomma quali sono i temi, le informazioni anche che contiene questo documento. Non so se andare al traffico, Nicoletta, o far fare subito Carmelo dice di sì. Cosa dice Carmelo? Sì, dai, lui vuole sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e andiamo allora, dai. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Cuore e Denari. Take me back, I've been away too long. Take me back to my home, sweet home. Sweet Home, casa, dolce casa, e oggi parliamo di compravendita della casa, parliamo in particolare di tutte le formalità che ci portano alla stipula del rogito. Prima di arrivare a questo, fra compratore e venditore si è soliti, ma non è detto che capiti, esatto, sempre, firmare un contratto preliminare. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande su questo tema, su questo contratto. Oggi c'è la guida delle Sole 24 Ore, comprare e vendere casa, e noi abbiamo promesso naturalmente che ai primi 10 ascoltatori, mi siete già molti di più che chiamano con delle domande sull'argomento, naturalmente possiamo regalarne qualcuna, per cui mettetevi ancora in coda perché ne abbiamo un po' a disposizione. Con noi il notaio Roveda, presidente del notariato di Milano, e allora abbiamo subito delle domande degli ascoltatori. Notaio, così almeno entriamo immediatamente nei termini concreti di questo atto. Vincenzo ci chiama da Roma, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, volevo fare una domanda al notaio cortesemente. Sì, vada. L'informazione che volevo avere era che io ho stipulato un preliminare che ho provveduto anche a trascrivere per mia garanzia e anche per garanzia del costruttore, perché in realtà ho di fatto realizzato un rent to buy della durata di 24 mesi. Sì. Adesso sono arrivato alla scadenza dei 2 anni e dovrei stipulare il rogito. La mia domanda è: quali sono gli obblighi derivanti da un preliminare trascritto, visto che all'atto del preliminare non mi è stato possibile inserire la clausola di salvaguardia, per cui se la banca non mi concede il mutuo non posso non acquistare l'immobile? Non è stato possibile, Vincenzo? No. Perché ve lo siete dimenticato? Perché l'abbiamo proposto, ma il costruttore giustamente ha fatto osservare che avendo io la detenzione di 2 anni dell'immobile non poteva garantire un vincolo di 2 anni, era un po' troppo lungo. Esatto, insomma. Esatto. grazie Vincenzo, adesso andremo a spiegare anche notaio Roveda che cos'è il rent to buy. Prima però di arrivare a rispondere alla domanda di Vincenzo da Roma, facciamo un po' di ABC su quelle che sono le informazioni che deve mediamente contenere questo documento, il preliminare di vendita. Poi andremo al caso specifico del rent to buy, che è un po' complicato e ancora rappresenta una nicchietta di mercato non tanto diffusa. Sì, infatti l'ascoltatore ha stipulato un contratto che non è ancora così frequente. L'ABC del preliminare. Il preliminare obbliga a vendere e obbliga ad acquistare le due parti. E come tutti gli obblighi deve essere adempiuto. E come tutti gli obblighi può essere inadempiuto. E in caso di inadempimento si hanno le sanzioni che si ha in caso di adempimento del contratto. In particolare il contratto preliminare è accompagnato spesso, direi sempre, dal pagamento della cosiddetta caparra, la caparra confirmatoria. Cioè una parte del prezzo, può essere il 15, il 20, il 25, il 30%. Ma può essere anche una percentuale molto più bassa. Può essere una percentuale molto più bassa, però nella norma sono queste le percentuali. Cosa succede se uno si rifiuta di andare a stipulare il definitivo? Il compratore perde la caparra. E il venditore è obbligato a restituire il doppio di quanto ricevuto. Ah, però. Quindi il preliminare non può essere firmato a cuor leggero, perché i rischi di inadempimento sono rischi economicamente pesanti. Quindi blinda in maniera significativa le due parti. Esatto, blinda in maniera importantissima le due parti. Quanto alla clausola con cui ci si riserva di andare a rogito solo se la banca avrà concesso il mutuo, è una clausola che spesso i venditori rifiutano con un certo fondamento, perché che il mutuo venga concesso o meno dalla banca dipende anche dal grado di collaborazione che l'acquirente ha nel produrre i documenti, e quindi è abbastanza facile non ottenere un mutuo da una banca e quindi sfuggire agli obblighi. Per 2 anni è abbastanza logico che il venditore, il signor Vincenzo, abbia rifiutato l'inserimento di questa clausola. Detto questo, adesso lui non ho capito in che tipo di condizione si trovi, comunque ha stipulato un contratto di rent to buy. Magari ricordiamo agli ascoltatori che non ne hanno mai sentito parlare in che cosa consiste questa procedura abbastanza nuova per comprare una casa in Italia. In realtà si passa attraverso un periodo di affitto, però il contratto dice che l'abitazione verrà comprata definitivamente. Sì, verrà comprata definitivamente, potrebbe essere un contratto che ha un'opzione di acquisto per l'acquirente oppure un contratto che ha un obbligo di acquisto. Qui i canoni versati hanno una componente di affitto e una componente di prezzo e il signor Vincenzo rischia, non andando a rogito, di aver pagato un affitto, ma questo non è un rischio, anche se non avesse comprato avrebbe pagato, ma di perdere quella parte di canone che era imputabile a prezzo. Quindi deve fare in modo di cercare a tutti i costi di riuscire ad andare a rogito e saldare il prezzo concordato. Allora, qua stamattina gli ascoltatori che si stanno candidando ad intervenire ovviamente ci presentano dei casi piuttosto complessi. Dal rent to buy passiamo all'acquisto della casa all'asta con Gino da Padova. Certamente sono due branche che avrebbero bisogno di essere esaminate in maniera individuale con delle puntate specifiche, ma se le esigenze sono queste magari le faremo, Nicoletta, che ne dici prossimamente. Gino, benvenuto. Buongiorno belle signore. Ah già questo subito la guida e vendere casa immediatamente. Subito, partite già in viaggio verso Padova, Gino. Grazie mille. Ci dica. Volevo sapere un po' di ABC per quanto riguarda l'acquisto di case all'asta al tribunale, perché ho visto che ci sono varie tipologie. Per esempio occupato senza titolo, occupato da... Allora Gino, aspetti un attimo, però stamattina il tema è il preliminare di vendita, diciamo, in una compravendita ordinaria. Ecco, esatto, ci fermiamo là sulla vendita all'asta, poi che è un mondo veramente da esplorare, in cui muoversi con grande cautela, ci torneremo. Il preliminare di vendita nella compravendita appunto di un'abitazione all'asta, avvocato Roveda. Avvocato, notaio, sì, stamattina le ho fatto fare un avanzamento di carriera, anzi un avanzamento, una modifica. Una modifica di carriera. Esatto. Non c'è nessun preliminare nell'acquisto all'asta. All'asta oggi si possono acquistare immobili a prezzi particolarmente convenienti, perché così è nei momenti di mercato depresso. Cioè, ma con chi si stipula il preliminare? Non si stipula con il compratore. Nessuno, esatto. Si fa un'offerta all'asta, si deposita anche qui una cauzione che equivale alle caparra. E poi entro il periodo di tempo fissato nel bando d'asta si deve saldare il prezzo. Il bene viene trasferito con un decreto del giudice e quindi non è un atto contrattuale, è un acquisto sicurissimo perché il decreto del giudice pulisce da tutte le ipoteche, da tutti i sequestri, da tutti i pignoramenti. Chi ha disponibilità economiche in questo momento deve guardare al mondo delle aste con particolare interesse. E insomma ci sono delle occasioni sul mercato questa interessanti, però insomma poi andremo magari molto volentieri dobbiamo ad una puntata. Dobbiamo fare una puntata sulle vendite all'asta. Allora, dobbiamo andare invece adesso a sentire il giornale radio. In 2 secondi, notaio Roveda, fra un preliminare di vendita e il rogito definitivo c'è un tempo massimo che deve intercorrere o non è fissato mediamente? C'è un tempo massimo per gli effetti della trascrizione, che è 3 anni. Solitamente i tempi sono più brevi. A tra poco. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21:30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar ce l'ha con te questo. Ma no, ce l'ha con te. No, ce l'ha con te. Ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24 c'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar Giannino e Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. State ascoltando un programma offerto da Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. La primavera esiste la mattina, dalla mia cucina vedo il mondo tondo, sempre diverso, sempre ogni mattina, sì dal giorno prima, dal giorno prima. Con in bocca un gusto amaro che fa schifo, chissà cos'è stato quello che ho bevuto. Alzo dal letto e penso al povero mio fegato, fegato, fegato spappolato. Vedo e non vedo, chili che si vedono versus grasso che non si vede. Misuratevi il vostro giro vita, basta un centimetro da sarta. Prendete il numero, chiamate il nostro numero verde e diteci anche se recentemente avete fatto esami relativi alla salute del vostro fegato. Ne parleremo insieme tra poco, 800 24 00 24 per dubbi, domande, richieste, storie. A tra poco. No, no, no, no. Aspettare più non posso. E va bene sì, se proprio vuoi, facciamo un compromesso. Si chiama anche così il preliminare di vendita, il compromesso, quell'atto che precede il rogito e quindi la stipula definitiva di una compravendita immobiliare. Con noi stamattina il notaio Arrigo Roveda, presidente del notariato di Milano. Stiamo proprio parlando del preliminare di vendita di un'abitazione. C'è la guida del Sole 24 Ore, comprare e vendere casa, che stiamo mettendo a vostra disposizione. Come sempre siete in tanti a chiamarci all'800 24 00 24. Chi di voi si trova in questo frangente? Siete pronti a firmare un preliminare? Oppure lo avete firmato qualche tempo fa, vivete quel momento transitorio, quella fase transitoria tra il preliminare e il rogito, qualcosa è cambiato in questo lasso di tempo, quindi qualche brutta sorpresa? Allora sentirei Giuseppe da Reggio Emilia e quindi abbiamo una batteria di domande adesso prima di salutare il notaio Roveda. Giuseppe, benvenuto. Sì, buongiorno. Io ho fatto il preliminare di compravendita dal notaio in giugno, ho rogitato in luglio. E nell'atto chiaramente si ribadiva, visto che chiaramente acquistavo da una persona che vendeva ma che era comunque presente nell'immobile, abbiamo stipulato che il 30 ottobre dovesse consegnare le chiavi con l'immobile libero da cose e persone. Ora, ottobre sta arrivando, mi chiedevo, nel caso non ci sono motivi per credere che, insomma, che non le se ne vada questa persona, buone. Nel caso non dovesse accadere il peggio, che cosa posso fare? Però Giuseppe mi pare di capire che lei ha già rogitato anche, per cui è pienamente rogitato. Dispone sì, sì. Pienamente, ma non ancora pienamente, notaio Roveda, di questa proprietà. È possibile che si verifichi anche un caso di questo genere? Ha la proprietà ma non il possesso. Mm-hmm. Se il rogito è stato formulato bene, come non ho dubbi che sia stato formulato bene, ci sarà l'obbligo di questo signore a lasciare libera la casa, che è un obbligo che se inadempiuto può essere forzato, come quello di una persona che ha finito la locazione e quindi non come esce uno sfratto regolare. E quindi si può andare dagli ufficiali giudiziari e ottenere la liberazione degli immobili. Un altro suggerimento per chi dovesse stipulare un rogito di questo genere con possesso differito è quello di prevedere a carico di chi rimane, chi vende e rimane nel possesso, una penale. Mm-hmm. Misurandola ad ogni giorno di ritardo. Per esempio, si può dire che in caso di ritardo il venditore che non libera l'immobile pagherà 100, 150, 200 euro al giorno per questo ritardo, e pattuire che parte del prezzo venga consegnato solo al momento del rilascio della liberazione del diciamo dell'immobile, del ci rilascio sono degli del strumenti possesso, contrattuali, esatto, per ovviare, certo, a quella che per spesso tutelarti è un'esigenza. Certo. Notaio Roveda, vogliamo ricordare che proprio un anno fa circa il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato, con la collaborazione delle associazioni dei consumatori, la guida per il cittadino proprio sulla garanzia preliminare. Riguarda quindi l'argomento di cui stiamo parlando questa mattina? Sì, certo, è una delle serie di guide che il Consiglio Nazionale del Notariato ha fatto in collaborazione con l'associazione dei consumatori. Una è proprio dedicata alla contrattazione preliminare. La troviamo sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato. www.notariato.it. Benissimo, e segnalo che c'è anche una dettagliata guida su questo argomento anche dell'Agenzia delle Entrate. Insomma, diamo un po' una botta al cerchio e una, come si dice? Una colpa al cerchio, una botte, qualcosa del genere. Su questa non siamo tanto preparati. Alessandro da Roma, benvenuto. Buongiorno, volevo porre una domanda al notaio cortesemente. Sì. Io ho stipulato circa 2 anni fa un preliminare con godimento anticipato del bene e adesso starei per stipulare il rogito Ma volevo chiedere, so che esiste un dispositivo dell'articolo 2932 del codice civile che obbliga in ogni caso a procedere all'acquisto dell'immobile, pur se non si trovasse diciamo di fronte all'impossibilità di acquistarlo per vari motivi, tra cui anche quello di non avere un mutuo. Ottenuto il mutuo, naturalmente. Allora, mi scusi Alessandro, quindi lei è il compratore o il venditore? Il compratore? Io sono il compratore, sì, volevo sapere se sono in ogni caso obbligato a comprare. Ha qualche difficoltà nell'ottenimento del mutuo? L'anticipo che ho dato. Esatto, sì. Ecco Alessandro, grazie. No, perché grazie. Adesso non perché volevo infierire su di lei, ma perché magari questa è una situazione, è una condizione diffusa, no? Del compratore che stipula, magari prendendosi tutto il tempo necessario, un preliminare di vendita con un venditore. Naturalmente il tema della concessione del mutuo è cruciale per andare a definire l'operazione. Notaio Roveda, che succede se non ci si riesce? Il venditore qua ha una scelta, quella di incassare la caparra e tenersi il bene, oppure concedere altro tempo, andare dal giudice e ottenere una sentenza che ha gli stessi effetti del contratto e che quindi trasferisce il bene e obbliga a pagare. Dipende tutto dall'ammontare della caparra. O il preliminare si può rinegoziare. Il preliminare, tutti i contratti possono essere modificati con l'accordo, certo, di tutte le parti che hanno sottoscritto il contratto. Quindi se il venditore fosse d'accordo, magari può dire anche a questo compratore in momentanea difficoltà ad ottenere un mutuo: ti do un altro anno, andiamo a rivedere questo nostro patto preliminare, notaio. Potrebbe... Non c'è dubbio. Il termine può essere allungato, può esserci un corrispettivo per questo allungamento del termine, però ogni contratto può essere modificato. Certo. Il tema è che qua appunto il nostro potenziale compratore la sua caparra però la perde, non ha nessun modo per poter rientrare di questa somma. No, direi di no. Se è inadempiente paga le conseguenze del suo inadempimento. Insomma, chi sbaglia paga. Chi fa i conti, no? Oppure chi fa un pochino il passo più lungo della gamba, bisogna fare anche i conti. Per questo noi suggeriamo sempre, prima di imbarcarvi nella firma di qualsiasi contratto preliminare, andate in banca per capire se la banca... È un tema che tu tratti nel tuo ultimo libro, sì, Donne di Denari. Ci tengo molto, un tema perché che ti sta particolarmente a cuore, vero? Esatto, infatti, a cuore denari. È vero, fate allora, oltre a fare una chiacchierata con il notaio che vi spiega tutta la tassazione che naturalmente deve essere rispettata per formalizzare una compravendita immobiliare, però andate anche in banca sulla base del vostro contratto a tempo determinato, indeterminato, quello che è, qual è la cifra che la banca può erogarvi e quanto siete in grado di pagare mensilmente. Dopodiché è il budget dal quale partire per eventualmente fare l'investimento immobiliare. Non fate nessuna, non firmate niente prima del tempo, insomma. Ercole da Napoli, poi do la linea a Nicoletta. Ercole. Buongiorno, salve. Allora, io volevo porre una domanda, anzi due domande. No, veloce, Ercole, una, non più. Veloce. Grazie. Allora, riguardo l'acquisto, come tutelarsi per l'acquisto di una nuda proprietà, essendo che le nuove regole condominiali, diciamo, se l'usufruttuario non paga il condominio, si può rivalere sul... Siamo già sul terreno troppo complicato, Ercole, qua avremo bisogno di una puntata solo sulla nuda proprietà, ma anche per una nuda proprietà, notaio Roveda, è necessario, secondo lei, è consigliabile stipulare un preliminare di vendita? Sì, certo. Anzi, forse... No, può essere meno importante perché nella nuda proprietà non c'è il tema del possesso, quindi uno degli elementi che di solito vengono contrattualizzati in un preliminare non è necessario contrattualizzarlo, cioè, certo, il problema è il pagamento. Più spesso per le nude proprietà si può arrivare al rogito saltando il preliminare. Stamattina le ho fatto rispondere a tantissimi ascoltatori, c'è una raccomandazione sul preliminare di vendita che è necessario dare ai nostri ascoltatori che non abbiamo detto nel corso della trasmissione? Ultima raccomandazione del notaio Roveda. Sì, il preliminare di vendita nella maggior parte dei casi è veramente opportuno trascriverlo per evitare che succedano tra il preliminare e il definitivo. Bravo, perché un ascoltatore dice che non è stato trascritto e se la prende con il notaio. È giusto prendersela con voi se non viene trascritto, non deve pensarci la parte in causa. No, è un obbligo del notaio la trascrizione preliminare, ma per far trascrivere preliminare bisogna andare dal notaio e firmarlo davanti a lui. Non si può portare un preliminare al notaio firmato in agenzia e pretenderne la trascrizione. Non è chiarissimo, possibile. Chiarissimo. Grazie notaio Roveda, buon lavoro, grazie per la sua chiarezza. Giornata. Allora, adesso dove andiamo? Allora, adesso noi cambiamo, la di troppo. Cambiamo tema, anche noi anticipiamo una giornata importante che è l'Obesity Day ed è tornato a trovarci il professor Giuseppe Fatati, presidente della Fondazione dell'Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, direttore di diabetologia e dietologia all'ospedale di Terni. Buongiorno. Buongiorno a voi. Professor Fatati, lei sta proprio per entrare, siete all'Expo? Sì, proprio sì, l'edizione all'Expo di quest'anno e quindi altro che attualità, Deborah, li battiamo nel tempo. Ah sì? Allora, anteprima mondiale. Anteprima. Professor Fatati, con carta e penna, o meglio con una calcolatrice perché noi siamo un po' zoppicanti, noi no, Deborah è brava con i calcoli, io sono una capra. Possiamo avere comunque un quadro preciso della nostra situazione, sapere se siamo sottopeso, normopeso, sovrappeso, se siamo obesi, basta calcolare l'indice di massa corporea. Va ancora bene, esatto, vero professor Fatati? Massa corporea va sempre bene, dividere il nostro peso per l'altezza in metri al quadrato è sempre un indice attendibile o almeno indicativo di quello che noi vogliamo sapere, ossia se stiamo pesando un pochettino troppo e quindi dobbiamo cambiare il nostro stile di vita, oppure rientriamo in quel range che va tra 20 e 25 che non crea alcun problema alla salute e quindi possiamo continuare a comportarci, sperando che ci siamo comportati bene, nel modo usuale. Professor Fatati, io ho suggerito anche ai nostri ascoltatori che magari non vogliono cimentarsi con calcoli e numeretti di prendere il metro della sarta e di misurare la circonferenza addominale. Ma questo sicuramente mi ha promossa. Direi che un consiglio che dobbiamo dare ai nostri ascoltatori è di verificare se questo metro tende ad allargarsi, perché il nostro problema non è tanto sapere quanto pesiamo in quel momento o quanto è la nostra circonferenza vita, o se la circonferenza vita di noi maschietti supera magari il metro e quindi diventa 102 centimetri classici e diventa pericoloso, ma sapere se stiamo aumentando di peso, perché l'obesità ha una fase dinamica e una fase statica. La fase dinamica è quella in cui riusciamo a incidere maggiormente, quindi se stiamo aumentando di peso non aspettiamo di arrivare al top e di stabilizzare il nostro peso, ma cerchiamo di fare subito qualcosa per scendere e tornare ad un peso accettabile. È sempre la stessa, no? Idea, prevenire meglio che curare, quindi se vediamo che l'ago della bilancia si sposta, se sentiamo che esatto, i pantaloni o la gonna tirano, intanto ditecelo all'800 24 0024. Ecco, e allora bisogna darsi un po' una mossa. Infatti, professor Fatati, la giornata di quest'anno mette proprio l'accento sull'importanza del cammino, no? L'abbiamo detto tante volte, camminare fa bene alla salute, le ricerche lo dimostrano, ultima in ordine di tempo quella firmata dall'Università tedesca di Saarland, che sostiene che una passeggiata al giorno può allungare la vita di 7 anni. Allora, professore, ci faccia iniziare col piede giusto. Quanto, allora, quando e a che passo dobbiamo camminare? Allora, per camminiamo insieme vuol dire due cose. Prima di tutto camminare. Fare una bella passeggiata 20-30 minuti al giorno sicuramente ci allunga la vita e ci fa stare meglio con noi stessi e con gli altri. Ma camminiamo insieme vuol dire anche vivere il proprio ambiente, vivere la propria quotidianità e, se c'è un problema, camminare insieme a una struttura che sono i servizi di dietetica e nutrizione clinica o un team di nutrizione che ci aiuti. Camminare insieme vuol dire anche non andare a rincorrere dei falsi miti o il miracolo improvviso, ma cercare di capire che tutte le volte che vogliamo cambiare il nostro stile di vita ci dobbiamo un po' impegnare, e il camminare è il primo impegno, che è spesso e volentieri un impegno piacevole e si può andare anche alla riscoperta, e qui anche il senso più largo del camminiamo insieme, delle bellezze della propria città, della propria località, della propria regione. Ossia, non è detto che il camminare voglia dire per forza mettersi su un tapis roulant, va bene anche questo, ma va bene anche utilizzare il camminare per stare insieme agli altri e bene con gli altri. Insomma, si può anche camminare con gusto, professor Fatati. Allora, approfitto di questa anteprima, ancora prima dell'Expo, cuore denari veramente straordinario, il professor Fatati ci ha fatto un grande regalo, perché lei faccia un invito agli ascoltatori di Cuore Denari, che naturalmente possono a loro volta invitare amici, parenti, perché che cosa c'è? C'è una possibilità molto ghiotta, a proposito di dieta per in occasione dell'Obesity Day. Sicuramente sì, cioè l'opportunità ghiotta è quella di avere a disposizione 150 servizi di dietetica su tutto il territorio nazionale. Per chi vuole camminare veramente, il giorno 11 ci sono addirittura 3 mini maratone, una a Roma, una ad Arezzo e una a Carpi, che ci aiutano a camminare con gusto, perché ci sarà una nostra postazione, e questo di una postazione Obesity Day in tutti i luoghi dove si cammina, per far capire quanto è utile e che cosa bisogna fare, continuerà poi in seguito con tutti quegli eventi della FIDAL che chiederanno, abbiamo chiuso un accordo con loro, che chiederanno la nostra presenza e la nostra disponibilità. Quindi, professor Fattati, camminiamo insieme. Lei ogni tanto cammini fin qua in Via Monterosa, ecco, e si faccia vedere. Benissimo. Va bene. Guardi che da Expo qui in Piazzale Lotto sono veramente 7 minuti al massimo, 10, top. Dia il buon esempio. Con la metro. Ci veniamo a trovare. Grazie, professor Fattati. Grazie a voi. Cuore Denari continua. C'è un organo, l'abbiamo anticipato, che risente del nostro stile di vita. Ci assomiglia, insomma, perché se ingrassiamo, ingrassa e ingrossa anche lui, e questo non lo fa stare bene. Voi l'avete già indovinato, ne abbiamo in effetti già anticipato nel corso della trasmissione, parliamo proprio del fegato. Sentiamo. È un gran lavoratore, instancabile e scrupoloso. Non si lamenta mai. Quando lo fa è proprio perché non ne può più. Tende a ingrassare e anche a ingrossare. Ha un caratterino tutto suo. Gli salta spesso la mosca al naso. Ama la vita regolare, ma non insipida. Gli piacciono la varietà e la misura. Bene, sì, oggi parliamo di fegato, la lotta al sovrappeso, come abbiamo appena sentito dal professor Fattati, è di grande attualità, ma non c'è solo il grasso visibile, quello che vediamo ad occhio nudo, che possiamo misurare, c'è anche quello che non vediamo, tanto che gli esperti ci invitano a mettere a dieta anche il nostro fegato, che a nostra insaputa può ingrassare, quindi non funzionare più a dovere. I medici chiamano questa condizione steatosi. Allora, oggi cercheremo, con l'aiuto di una grandissima esperta, di capire quali sono i segnali, le persone a rischio, i rischi connessi e come si arriva alla diagnosi, e soprattutto come si può prevenire ed evitare. Se avete a cuore la salute del vostro fegato, se avete soprattutto domande, se avete fatto degli esami di recente, se avvertite qualche disturbo che pensate possa essere la spia di una sofferenza del vostro fegato, se crearvi qualche pensiero sono appunto i valori registrati nelle ultime analisi prescritte dal vostro medico, noi siamo qua. Chiamateci 800 24 00 24. Intanto, a proposito di numeri, adesso finalmente c'è la borsa mi che viene richiesta a gran voce. Quindi andiamo subito ad accontentare gli ascoltatori che hanno questa carenza da mercati finanziari. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da Uliveto. Ti aiuta a digerire. Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Cuore e denari. Mi so magna del fegato e me lo magno ancora. E lì sul nostro fianco destro, lavoratore instancabile, prezioso, ma come sempre succede ai buoni, è preso di miro, per meglio dire esposto a grande varietà di attacchi, e quindi è uno degli organi del corpo più frequentemente danneggiati. Oggi vogliamo parlare dei disturbi del fegato e anche delle situazioni che possono provocarli, diete sbagliate, alcol, comportamenti a rischio, insomma una puntata in cui impareremo a prenderci cura del nostro fegato per prevenire le malattie prevenibili, ma anche per restituirgli il benessere. Intanto iniziate a chiamarci se avete qualche sospetto, se gli esami che avete fatto non vanno proprio bene, se il vostro medico vi ha trovato il fegato ingrossato o ingrassato. Attenzione, non sono sinonimi questi termini. In linea con noi abbiamo il piacere di avere una grandissima esperta che è tornata a trovarci, la professoressa Silvia Fargion, che è ordinario di medicina interna all'Università di Milano e primario di medicina interna e indirizzo metabolico al Policlinico di Milano. Professoressa Fargion, Ron, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Allora, normalmente, professoressa, per fortuna il fegato non è al centro delle nostre preoccupazioni, ma ci sono delle situazioni o dei segnali che improvvisamente ci fanno temere un po' per la sua salute, no? Quando ad esempio avvertiamo un leggero dolorino nella parte destra alta dell'addome, oppure facciamo fatica a digerire, oppure quando, presi dai sensi di colpa, ci rendiamo conto che la nostra dieta è diventata un po' esagerata, sta prendendo una brutta piega, e allora intuiamo, temiamo che il nostro fegato ne paghi le conseguenze. Vorrei che lei ci aiutasse un po' a fare il punto della situazione e per aiutarci a capire quali sono le nostre preoccupazioni infondate, quando invece c'è da, non dico preoccuparci, ma stare un pochino più attenti. Allora, il fegato grasso è una situazione estremamente frequente. Consideriamo che il 20-30% della popolazione generale, quindi non dei malati, ma della popolazione generale di noi, ha fegato grasso, e questa percentuale rimane anche molto alta nei bambini, che diventa ancora più temibile. È chiaro che fegato grasso è molto più frequente nei soggetti sovrappeso, e questo è un problema grave per i bambini, perché c'è spesso la tendenza di dire bimbo bello, sano e bimbo sovranutrito. Questo è sicuramente un errore, un pericolo, per cui non a caso il bimbo sano è quello più magro e snello. Ecco, questo mettiamo già un messaggio, diamo già subito un messaggio alle mamme. A proposito, lei ha parlato di bambini, vorrei ricordare e commentare con lei un articolo interessante firmato dai suoi colleghi del Bambino Gesù di Roma, che parla di adolescenti. Invece, secondo l'articolo, aumenta il numero di ragazzi sovrappeso, un dato che preoccupa anche i pediatri e i medici, soprattutto quando il ragazzo sovrappeso durante l'adolescenza inizia a fare ricorso a bevande alcoliche. Ecco, questa accoppiata sovrappeso e consumo di alcol è sicuramente è una miscela esplosiva, anche perché ci sono una serie di documenti, pubblicazioni che evidenziano che se un soggetto ha il fegato grasso per problemi metabolici tipico sovrappeso e beve anche una piccola quantità di alcol, l'effetto è esplosivo. Cioè, una piccola quantità di alcol su un fegato grasso è enormemente più dannoso rispetto a quello stesso quantitativo di alcol su un fegato non grasso. Vogliamo, professoressa Fargion, provare a tratteggiare il profilo della persona che in teoria potrebbe avere un fegato grasso? Sicuramente lei ha citato la persona in sovrappeso. Lieve sovrappeso oppure bisogna che i chili in più siano tanti? No, in realtà anche lieve sovrappeso, cioè uno dovrebbe starci attento fin dall'inizio. È chiaro che il soggetto normopeso è più protetto, ma consideriamo che il peso non è l'unica variabile che uno deve considerare, perché non è tutto il grasso che è ugualmente dannoso. Il grasso sottocutaneo, che peraltro pesa, è molto meno dannoso del grasso viscerale, tant'è vero che oggi si preferisce riferirsi non tanto al BMI, che ci dà un'informazione del rapporto peso-altezza, sì, l'indice di massa corporea, quanto la circonferenza addominale, che meglio riflette il grasso viscerale. Anche perché, professoressa Fargion, magari con lei non, a lei non lo dicono perché non si osano, è un medico, però molto spesso le persone, soprattutto gli uomini, dicono vedi, io non sono grasso, ho solo la pancia. E allora vediamola un po' questa pancia, misuriamo quella delle donne, misuriamo quella degli uomini, basta un centimetro, il centimetro della sarta. E il professor Fatati, suo collega prima di lei, ha ricordato anche i nostri ascoltatori di Cuore Denari, oltre a invitarli in occasione dell'Obesity Day, a tenere sotto controllo se il numero dei chili, no, aumenta progressivamente negli anni. Mi ricordo che in una puntata avevamo chiesto ai nostri ascoltatori di dirci il loro peso a 18 anni e di confrontarlo con quello e col peso attuale, e dire più o meno di quanto, no? Quante taglie avevano ahimè, preso. È una condizione molto frequente che tutti, ma soprattutto gli uomini che ci stanno meno attenti, tendano ad aumentare di peso con gli anni. Le donne, devo dire che in linea di massima, sono più attente ai problemi estetici, aumentano anche loro, e ahimè l'aumento è massimale nella fase della menopausa, sì. Tendono a starci attenti, cioè se prendono 2 chili tendono poi a stare un filino più in dieta, l'uomo un po' meno. Un po' meno. Allora 800 24 00 24, parliamo del fegato della donna e parliamo del fegato dell'uomo e parliamo anche della vostra pancia, circonferenza addominale. Professoressa Fargioni, il fegato è un lavoratore instancabile, non si lamenta mai se non proprio quando la situazione è arrivata ai livelli di guardia, quindi possiamo tranquillizzare le persone che ci scrivono leggera dolenzia nella parte alta destra del l'addome? Beh, tranquillizzare nel senso che innanzitutto bisogna capire che si tratti veramente di fegato. Molto spesso il dolore nella parte alta destra dell'addome, soprattutto se laterale, riflette un dolore intestinale. Quindi bisogna discriminare quanto è un dolore intestinale e quanto è un dolore di fegato. Il fegato per far male deve essere molto ingrossato, se no è un organo assolutamente muto. E in genere l'attenzione viene posta sul fegato casualmente in base a degli esami epatici che dimostrano delle transaminasi, degli esami alterati, pre-transaminasi o la gamma GT. E notiamo che oggi come oggi la maggior parte dei pazienti che si rivolgono agli specialisti epatologi hanno la steatosi epatica, cioè il fegato ingrassato. Il fegato ingrassato. E perché si rivolgono? Perché fanno casualmente al lavoro per un controllo degli esami e trovano transaminasi non altissime, ma le ALT 80, le AST 50, con una gamma GT 60-70, con valori normali fino a 50. Si recano dal medico e il più delle volte trova questo fegato grasso. Allora consideriamo che il fegato grasso non solo è dannoso per il fegato stesso, ma va con la cosiddetta sindrome metabolica, e quindi questi pazienti sono più esposti a diabete, a ipertensione arteriosa, a dislipidemia, a malattie cardiovascolari e ahimè anche al tumore. Allora andiamo intanto ai nostri ascoltatori. Abbiamo Paolo, Daniele, Luca. La professoressa Fargion ha sottolineato che spesso sono gli uomini che dico che non si occupano, no, della loro circonferenza addominale, lasciano che i chili si accumulano e si preoccupano solamente quando arrivano ad un peso che diventa un po' importante. Subito loro hanno risposto. Iniziamo subito da Daniele, che ci chiama dalla provincia di Ravenna. Buongiorno Daniele. Buongiorno. Niente, io sono alto 1,70, peso 70, 73, 74, vario su questo peso qui, e sì, non sono mai capace di diminuire, anche se sto attento un po' a mangiare, mi gonfio, ho sempre la pancia gonfia, gambe sottili, uomo sottile, capito? È solo di pancia, tutta pancia. Tutta pancia, vedete. Uomo di sostanza, si dice, c'è un proverbio anche. Uomo di panza, uomo di sostanza. Uomo di sostanza, va bene. Ecco, la sua pancia è superiore a? Come a un metro e quattro. 104, vediamo 104. Allora, Debora. Stando sui 73-74 kg di peso. Allora, professoressa Fargion, Debora da donna di denari ha detto uomo di pancia, uomo di sostanza. Ma la professoressa Fargion, che invece è un medico e che si occupa della salute del fegato, anche di quello di Daniele, quali suggerimenti può dare a Daniele e alle persone? Sono tante che, nonostante la correzione dello stile di vita e quindi un'alimentazione più attenta, sociale, ad un'attività fisica regolare e costante, la pancia non riescono a buttarla giù. Che ecco, si fa? Allora, intanto bisognerebbe capire se questa pancia riflette grasso oppure ad esempio una distensione gastrica. Succede, e questo ancora di no, più spesso negli uomini che nelle donne, che ci sia una grande introduzione di liquidi durante i pasti, allora si tende a, lo stomaco si dilata e dilatandosi dà questa sensazione di pancia. Diverso invece è quando uno si fa un pizzicottino, diciamo, a livello dell'addome e tra le dita raccoglie un bel cicciotto, che quello è chiaramente grasso. Ecco, questa è già un'indicazione molto vera, possiamo farla molto tutta concreta, molto direi. Concreta, esatto. Quindi datemi un pizzicottino nella pancia, se c'è un bel rotolo tra le due dita continuate a chiamarci, a scrivere. Io sentite che cosa l'ho. Dice la professoressa Fargion. Quindi professoressa, allora a questo punto io suggerirei di fare un'ecografia del fegato, vedere se il fegato riflette, ha grasso in aggiunta nel fegato, cioè c'è steatosi, fare degli esami del sangue e oltre a bere meno durante i pasti, non parliamo di alcol perché andrebbe escluso nel paziente, totalmente escluso nel paziente che ha il fegato grasso, evitare cibi nocivi, che in questo caso sono soprattutto i formaggi, i salumi e i dolci, tutti i cibi che fanno aumentare i trigliceridi che poi si depositano nel fegato e danno luogo al fegato grasso. Ovviamente l'attività sportiva, come il professore che mi ha preceduto, è essenziale l'attività sportiva. Ora, uno che ha il fegato grasso non è che lo avrà sempre, se agisce in tempo la situazione è totalmente reversibile, non si aspetti che sia reversibile in 2-3 mesi, ci può mettere un anno, però è reversibile. Quindi si può fare. Professoressa Fargian, resti con noi, noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. È probabile che il vostro medico vi abbia trovato il fegato anche un po' ingrossato. Che cosa significa? Che condizione è? C'è da preoccuparsi? Lo chiederemo tra poco alla professoressa Fargian. Intanto, fuori i valori delle vostre ultime analisi, se qualcosa non vi torna, se avete dei dubbi, noi siamo qua. Tra poco. Cuore e denari. Hai fatto un bello caffè, eh? Il caffè. Vabbè, signor, datemi la mia, grazie. Tony, devo un po'. Per carità, è veleno, tengo tutto il fegato spappolato, non lo posso pigliare. E torniamo a parlare di fegato insieme alla professoressa Silvia Fargian oggi in questa ultima parte di Cuore Denari. Professoressa Fargian, a proposito, il caffè, amico o nemico del nostro fegato? Ma il caffè in questi ultimi periodi, in questi ultimi mesi, se non nell'ultimo anno, si è dimostrato non essere dannoso, anzi è avere un effetto benefico e ridurre il rischio di malattie epatiche importanti. Teniamo però attenzione al fatto che il caffè stimola la gastrite, quindi se un paziente ha un problema, cioè se uno di noi ha problemi di stomaco e sotto stress, il caffè gli darà fastidio, ma per quanto riguarda il fegato no. Allora andiamo alle domande dei nostri ascoltatori. Volentieri. Paolo, buongiorno da Milano, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Paolo. Eccola. Buongiorno, sono emozionato perché le vostre voci sono morbide come il velluto, oltre ad essere molto brave. Nicoletta e Deborah, complimenti. Ha ragione Paolo, emozionarsi perché siamo emozionati anche noi di fronte regalare a questi complimenti. Vabbè, apriamo va bene, subito la libreria, via. Allora, andiamo a noi, al nostro fegato. Una domanda alla professoressa Fargian. Avendo fatto un'ecografia a dome completo, risulta che il mio fegato è tendente alla steatosi, quindi chiedo informazione all'ecografo, mi dice che il 90% dei milanesi hanno praticamente il problema della steatosi, quindi come dire si mangia male. Ma cosa dovremmo mangiare per migliorare questo problema? Naturalmente non solo i milanesi, professoressa Fargian, certo, è possibile che questi milanesi 90% no, di fegato grasso, no, ma cosa mangiano? No, direi che chi le ha fatto l'ecografia probabilmente era fuorviato dal fatto che vede una fetta di popolazione che viene inviata perché ha le transaminasi alte. Certo. E quindi, come dicevo prima, il fegato grasso è l'indicazione principale per andare da uno specialista e poi fare l'ecografia. Direi che noi stiamo nel range del 30, massimo 40%. Mangiamo male perché mangiamo tanto, mangiamo in modo sregolato, mangiamo poca frutta e verdura, mangiamo molto intingoli e soprattutto ci beviamo anche. Formaggi, abbiamo detto, salumi, dolci, la pasta al pesto, per dire, è buonissima, ma sicuramente è un po' grassa, mentre una pasta con un sugo di pomodoro condito con olio extravergine, quindi grassi vegetali, andrebbe meglio. Professoressa Fargian, lei ha sottolineato, quindi per Paolo lo mettiamo un po' a stecchetto, esatto. Bisogna che riduca o elimini i formaggi, ricordiamolo, i formaggi, intingoli, fritti, dolci, carne rossa. Carne rossa. Però Paolo può andare sul sito di Cuore Denari e trovare delle ricette che noi abbiamo preparato con l'aiuto dei nostri esperti, molto calibrate, perché non vuol dire, professoressa Fargion, stare cioè rinunciare al gusto, certo, vero? Assolutamente no. Ecco, quindi può avere una dieta assolutamente varia ed equilibrata, facendo attenzione a quegli alimenti che possono ingrassare il fegato, una condizione che lo affatica, insomma, perché non gli permette di funzionare bene. Ma lei ha sottolineato l'aspetto alcol, perché ci sono tante persone che magari hanno una dieta assolutamente varia ed equilibrata e poi, lei ha detto, ci bevono su. Quanto alcol possiamo permetterci nel corso della giornata? So che voi siete, giustamente come medici, no, sottolineate molto il rischio del consumo di alcol. Allora, un fegato sano, cioè non con accumulo di grasso, può sopportare tranquillamente 2-3 bicchieri di vino al giorno. Cambia il discorso del superalcolico. Calcoliamo che quando si parla di alcol si deve considerare la percentuale di alcol nel vino, che varia dal 12-14%, nei superalcolici, che è 40%, nella birra, che è 7%. Ad esempio, un errore che viene fatto frequentemente è quello di dire: ma io bevo birra, però se ne beve 3 litri o 2 litri di birra, il quantitativo di alcol è sempre elevato. Quindi uno deve considerare l'equivalente di 2-3 bicchieri di vino. Sì. Tipo 30 grammi al giorno per un uomo vengono considerati assolutamente non dannosi, che vogliono dire un 3 bicchieri circa, e 20 grammi per la donna, che sono un pochino meno. Quindi un bicchiere, no? Questo su, sì, questo su fegato sano. Sano. Se il fegato è ammalato, grasso, ingrossato. Grasso oppure all'epatite C o a qualsiasi altra condizione di malattia del fegato, deve evitare l'alcol completamente, il vino completamente. Infatti è quello che ha fatto un nostro ascoltatore, Fabio da Savona, che ci scrive: causa forti dolori, sono 2 mesi che non bevo alcol, ho perso 8 chili. Sì. Vivere senza alcol non è divertente, ma morire lo è ancora meno. Va bene, saggio. Allora, questo è un saggio. Silvana, buongiorno, ci chiama da Varese, poi andiamo a Luca dalla provincia di Vicenza. Silvana, benvenuta, buona giornata. Buongiorno a tutti. Volevo questa informazione: ho appena fatto gli esami del sangue e ho un valore alto di 318 di ALP. Insomma, non ho capito molto bene, ma ha detto che riguarda anche il fegato. Le ALT riguardano esclusivamente il fegato? Sì. Che cosa sono, professoressa Fargiol? Sono le transaminasi. Che cosa ci dicono esattamente del nostro fegato le transaminasi? Perché sono così importanti? Perché ci dicono che la cellula epatica singola, l'epatocita, che forma, che è l'elemento unitario del fegato e dà luogo appunto all'organo, sì, ha necrosi, cioè è in sofferenza e butta fuori attraverso questa membrana della cellula compromessa il suo contenuto, di cui le transaminasi è l'esame più sensibile per dire che è in corso una necrosi epatica. Sì, sulla dieta dobbiamo chiudere, professoressa Fargion, si possono far tornare le transaminasi però i valori a posto con la dieta? Sono 350, mi paiono un po' tante, a meno che la signora beva anche molto alcolici. Allora, per qualunque domanda scriveteci, professoressa.